Ventunesima unità. Il sistema politico. Dialogo. Tempo di elezioni. Oh, finalmente le sei. Non vedevo l'ora che finisse questa settimana. Eh sì, è stata pesante. Per fortuna, domani vado al mare e per due giorni non si parla di lavoro. Al mare? E a votare quando ci vai? Semplice, non ci vado proprio. Bravo, se tutti facessero come te, l'Italia andrebbe a rotoli. Come se ora stesse andando bene. Su questo siamo perfettamente d'accordo, ma se si astenessero pure quelli che vogliono migliorare le cose, staremmo anche peggio. Senti, un tempo ragionavo come te. Pensavo che il mio voto fosse importante, cioè che potesse servire a cambiare le cose. Ma adesso... Adesso cosa? Hai visto il referendum sul nucleare? Molti credevano che non sarebbe servito a niente, e invece via le centrali. Se la gente non fosse andata a votare, avremmo perso la battaglia. Ma i referendum sono un'altra cosa. Le elezioni politiche, invece, lo sai, si vota e tutto continua come prima. Magari cambiasse qualcosa. Capisco, tu vorresti che la gente votasse diversamente. Insomma, che tutti dessero il voto a un certo partito, eh? Allora sai che ti dico? Piuttosto che far vincere quelli lì, sarebbe davvero meglio che tanti non andassero a votare. Senti, è inutile discuterne. Tanto ciascuno resta della sua idea. Ah, Marconi, temevo che fosse già uscito. A che punto siamo con la pratica della SAA? Sarà pronta lunedì sera, dottore. Peccato, speravo che l'avesse già completata. Sa che è della massima urgenza. Non potrebbe lavorarci domani? Ma domani è sabato. Sì, ma tanto lei resta in città per votare, no? Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Oh, finalmente le sei. Non vedevo l'ora che finisse questa settimana. Sì, è stata pesante. Per fortuna, domani vado al mare e per due giorni non si parla di lavoro. Al mare? E a votare quando ci vai? Semplice, non ci vado proprio. Bravo, se tutti facessero come te, l'Italia andrebbe a rotoli. Come se ora stesse andando bene. Su questo siamo perfettamente d'accordo. Ma se si astenessero pure quelli che vogliono migliorare le cose, staremmo anche peggio. Senti, un tempo ragionavo come te. Pensavo che il mio voto fosse importante, cioè che potesse servire a cambiare le cose. Ma adesso... Adesso cosa? Hai visto il referendum sul nucleare? Molti credevano che non sarebbe servito a niente. E invece, via le centrali. Se la gente non fosse andata a votare, avremmo perso la battaglia. Ma i referendum sono un'altra cosa. Le elezioni politiche, invece, lo sai. Si vota e tutto continua come prima. Magari cambiasse qualcosa. Capisco. Tu vorresti che la gente votasse diversamente. Insomma, che tutti dessero il voto a un certo partito, eh? Allora sai che ti dico? Piuttosto che far vincere quelli lì, sarebbe davvero meglio che tanti non andassero a votare. Senti, è inutile discuterne. Tanto ciascuno resta della sua idea. Ah, Marconi, temevo che fosse già uscito. A che punto siamo con la pratica della SAA? Sarà pronta lunedì sera, dottore. Peccato. Speravo che l'avesse già completata. Sa che è della massima urgenza. Non potrebbe lavorarci domani? Ma domani è sabato. Sì, ma tanto lei resta in città per votare, no? Ventunesima unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 25. Chiacchiere fra amici. Sai che è tornato Franco? Dici davvero? Non capisco perché non si sia fatto sentire. A me ha telefonato stamattina. Domani sera sono a cena da lui. Vedrai che ti chiamerà entro oggi per invitare anche te. Conoscendolo, non immaginavo che avrebbe fatto tante ore di viaggio per votare. Beh, veramente non è venuto per quello, ma per un altro motivo. Cioè? Non so se sarebbe contento che te lo dicessi. Credo che preferisca parlartene lui stesso. comporti come se io fossi un'estranea invece che un'amica. Su, dimmi di che si tratta. Non puoi aspettare che te ne parli lui? Su, dai, non farti pregare. E va bene. Franco è venuto a far conoscere la sua nuova ragazza ai genitori. Sembra che questa volta abbia intenzioni serie. Davvero? Beh, sapevo che aveva una nuova ragazza, me l'ha detto sua sorella. Ma pensavo che fosse una delle tante. Sono proprio contenta che abbia deciso di sistemarsi. Già, ma mi raccomando, quando ti telefona fai come se non sapessi niente. Lui pensa di farti una sorpresa. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 567. Non riesco a capire a cosa servono tanti partiti in Italia. In effetti alcuni sono così piccoli che non contano niente. È il Partito Comunista? Qui da voi è un partito importante, no? Oh sì, è sempre stato un partito molto grande, soprattutto qualche anno fa. Pensa che nelle elezioni il PC prendeva sempre più del 30% dei voti, quasi come la Democrazia Cristiana che aveva il 34%. E governavano insieme? No, no, al governo c'è sempre stata la DC, mentre il PC è sempre restato all'opposizione. E come mai? Perché gli altri partiti non lo volevano. Sai, allora i comunisti facevano molta paura. E adesso? Adesso meno, anche perché il PC recentemente si è spaccato in due. La maggioranza ha costituito un nuovo partito che ha preso il nome di PDS, Partito Democratico della Sinistra, e ha scelto come nuovo simbolo l'immagine di una quercia. E la minoranza? La minoranza è rimasta fedele alla vecchia linea e ha costituito un partito che si chiama Rifondazione Comunista. Bravo! Corso di lingua italiana e civiltà. Livello elementare e avanzato. Di Caterin Caterinov e Maria Clotilde Boriosi Caterinov. Edizioni scolastiche Bruno Mondadori.